prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Il silenzio sulla Repubblica Centrafricana abbiamo iniziato a romperlo alcuni giorni fa parlandone proprio in questa rubrica in vista di un evento che è stato mercoledì 19 nella chiesa di San Gregorio a Treviso. Torniamo a parlarne proponendovi la sintesi di una nostra intervista, un passaggio di una nostra intervista al dottor Mario Giobbia, un medico trevigiano che conosce appunto da volontario la situazione del Centrafrica. Intervista che potete vedere e sentire in versione integrale sul nostro canale YouTube. Ecco la voce del dottor Mario Giobbia. Che cosa fare? Gli abbiamo chiesto per tenersi informati, per tenere vivo questo argomento di questa tragica situazione del Centrafrica di cui abbiamo parlato 7 giorni fa. Io credo che il primo punto sia parlarne con la gente, parlarne con i mass media, far sentire la propria voce, dire guardate che esiste un problema Repubblica Centrafricana, è un paese che neppure si conosce molto spesso, ecco. Quando si parla di Repubblica Centrafricana si capisce che è in Centrafrica perché il nome dice questo, ma nessuno grossolanamente saprebbe indicarne bene l'ubicazione. Ebbene, in un momento in cui io credo la stampa in generale internazionale, ma direi soprattutto la stampa italiana, si concentra molto su quelle che sono giustamente le situazioni di crisi nel proprio paese, ma pone poi dei grandi accenti, come si diceva prima, la crisi turca, la crisi siriana, che fanno veramente centralizzano l'attenzione sia per l'importanza internazionale che anche per il numero di morti purtroppo in Siria. Ma direi è importante anche ricordare che ci sono delle realtà come queste dove milioni di persone sono lasciate in balia di pochi ribelli, di poche persone o meglio ancora sono lasciate in balia di multinazionali che giocano su queste guerre, su queste crisi. Quindi io direi sono presenti delle associazioni di estrazione completamente diversa, ci sono presenti delle associazioni di grande livello come Emergency, Coopi, Médecins Sans Frontières, gruppi come Caritas, ma sono anche presenti delle piccole associazioni locali di estrazione culturale diversa, di visione religiosa ed etica anche differente, ma che hanno voluto tutte unirsi in questo momento a dire noi ci siamo, noi siamo in Centrafrica, noi vogliamo dire che questo paese in questo momento sta soffrendo. Ognuno con le proprie caratteristiche, con le proprie idee, con le proprie peculiarità, vuole però portare all'attenzione dell'opinione pubblica il fatto che nel silenzio più totale della stampa, oppure si diceva semplicemente della gran parte, perché alcuni organi di stampa ne parlano, i francesi per interessi personali, la Radio Vaticana molto spesso per un intervento molto frequente nella zona, molto forte nella zona dei religiosi, o alcune ONG che riportano sulle loro testate questa crisi, non si sente parlare di nulla. La Repubblica Centrafricana è dimenticata, quindi il parlarne io credo sia la cosa più importante. Proporremo poi anche che questa iniziativa possa continuare a livello personale, magari con l'adesione ad una petizione che vorremmo inviare anche poi al nostro governo, una petizione che non chiede degli interventi militari, che non chiede soltanto un intervento e un'attenzione economica, ma chiede soprattutto una pressione politica seria. Siamo in questo momento nel G8, quindi possiamo far sentire la nostra voce, oltre che giustamente sulla Siria, giustamente sulla Turchia, ma direi anche giustamente sulla Repubblica Centrafricana, che non è una nostra priorità, ma costituisce comunque un momento di crisi umanitaria profonda, vera, esattamente come lo sono la Turchia, esattamente come lo è la Siria, anche se politicamente, economicamente meno importanti rispetto alle due grandi citate. Ecco. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Siria, Turchia, diceva il dottor Giobbia, Centrafrica di cui abbiamo parlato con lui, ma non solo, perché basta spostarsi nella catena geografica davvero di poco, ma l'area è molto vasta, basta spostarsi verso est rispetto alla Centrafrica per trovare il Corno d'Africa. 2011, ricorderete la grande siccità, la grande crisi alimentare, non è risolta nemmeno quella e se ne continua a a parlare. Quindi i paesi interessati sono il Sud Sudan, l'Etiopia, il Kenya, la Somalia, Djibouti e tutta quella parte che poi vide anche la presenza del nostro paese, presenza coloniale nel secolo scorso. Era l'autunno 2010 quando iniziarono i primi segnali della crisi alimentare, che si è aggravata fino all'estate 2011 e all'autunno successivo. Siccità tra le più gravi degli ultimi 60 anni, fattori cronici, i conflitti, la povertà, la fluttuazione dei prezzi. 14 milioni di persone interessate da questa crisi alimentare, con centinaia di migliaia di profughi e sfollati nell'Africa orientale. La crisi è stata aggravata dal ritardo degli aiuti e della comunità internazionale, che si è mobilitata in modo significativo circa 8 mesi dopo. L'arrivo delle piogge poi a metà novembre 2011 ha cresciuto la disponibilità d'acqua, però in alcune zone l'aridità del terreno era tale da non poter assorbire le piogge, di conseguenza ci sono stati allagamenti e diffusione delle malattie. L'ultimo raccolto del 2011 è stato molto scarso o completamente fallimentare, così come la stagione successiva delle piogge, quella del 2012, che ha lasciato la maggior parte delle famiglie senza acqua potabile, aggravando la moria dei capi di bestiame e innalzando ulteriormente i prezzi. E poi la crisi ha aggravato i conflitti locali armati esistenti nella zona, peggiorando la situazione sociale e provocando perdita di vite umane, ma anche la chiusura delle scuole e la distruzione di molte attività che generavano reddito e sostentamento per le famiglie. La Caritas Internazionale ha fornito assistenza alle famiglie ospiti scappate da carestia e conflitto nel campo profughi di Dadaab, Kambiosa, al confine tra Kenya e Somalia. È un progetto che ha ottenuto molti risultati. I casi di diarrea, ad esempio, sono diminuiti di circa l'80% e quasi tutta la popolazione ha accesso ai minimi servizi sanitari, perché solo potersi lavare, ad esempio, è un fattore di sicurezza, e si evitano così i contagi. Circa 3.000 famiglie hanno ricevuto i raccoglitori per la gestione dei rifiuti e ci sono anche altri raccoglitori comunitari disposti nel campo. Caritas Italiana aveva lanciato il primo appello appunto nel luglio del 2011, e i soldi poi raccolti con delle offerte straordinarie sono stati impegnati in moltissimi progetti. I paesi interessati hanno complessivamente distribuito 10 milioni di euro di fondi, distribuiti appunto, quasi tutti distribuiti, mancano 300.000 euro raccolti ancora anche nel corso del 2013. Soldi distribuiti evidentemente in base anche alla superficie, alla gravità della situazione. 21 sono stati progetti di emergenza, quasi 4 milioni di euro impegnati. 8 progetti nel settore idrico, 5 nel settore sanitario, 11 nel settore socio-economico, la prevenzione, quindi l'agricoltura e l'allevamento, 26 progetti di educazione, comunque di stampo sociale, 3 progetti su pace e diritti umani, 6 progetti riguardanti comunicazione, animazione e gestione, e divisi appunto nelle varie diocesi, nelle varie città, magari con poche migliaia o poche centinaia di euro, fino a progetti più impegnativi, come ad esempio la riabilitazione di 1.500 famiglie di sfollati nel centro-sud Somalia. Davvero molto, e attraverso la Caritas siamo sempre sicuri che i nostri soldi, le nostre magari anche piccole offerte vanno a buon fine, perché vengono seguiti, sono documentati, documentabili. Tutto si può trovare, si può chiedere informazione appunto anche per conoscere quali progetti specifici magari voler sostenere. Dunque un'occhiata anche al Corno d'Africa, quella parte anch'essa come altre dimenticate del mondo, dimenticate dal resto del mondo, che saremmo noi in questo caso. Tutti i dettagli come sempre su www.caritasitaliana.it. Avete ascoltato? Prossimo tuo. rubrica in collaborazione con la Caritas.